Massimo Maria Valli. Costo complessivo del finanziamento, però forse già non lo capisco, il taglio, allora il costo complessivo del finanziamento la struttura è la sua storia, cioè la definizione di fare la definizione precedente, cioè come c'è si cambi in un momento. Sì, comunque il punto è quello, cioè poi quello che si chiede la struttura, dopo verificare se il tasso che si è stabilito contrattualmente sia superiore al tasso soglia, però considerando qualunque costo, quindi le commissioni al mondo. Ma quello è quello di è oggetto del bilancio, diciamo una bilancia, questione di bilancio, questa deve stare una questione di diritto che va esaminando poi il centro della questione e dell'interesse. Però diciamo le altre due, quindi tutto questo proliferare di domande sono sempre comunque sempre questa questione. Sì, sì, la questione è questa, cioè l'interesse non si può avere un senso proporzionato, che dico 104,3 che è poi sempre questa cosa. La domanda è questa. La contestazione. Poi si dice che ci vuole cercare di creare che l'azione proprio di mutuo. La difformità dal tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato. Sostenete che il tasso effettivamente applicato non fosse quello contrattuale. Non fosse quello contrattuale. Accettare l'unità dei causi e condizioni di interessi che fosse in violazione anche degli articoli della delibera circa, a parte che la delibera circa riguarda la parte di conto corrente e quindi un marcismo degli interessi che è ammissibile nella legge di cui si è reciproco, ma qui non stiamo parlando di conto corrente, ma stiamo parlando di mutuo. Quindi la delibera circa abbiamo la parte di conto corrente, ma abbiamo un mutuo, quindi le rate nella quale gli interessi sono stati stabiliti contrattualmente, quindi non capisco il riferimento alla disciplina del marxismo che riguarda un altro aspetto, un altro tipo di contratto. Quindi l'importante per evitare quanto sicuro, quanto scritto in un'altra parte, il saldo, quindi la parte, diciamo, qui c'è un debito della parte tributaria nei confronti della parte mutuante che non ha corrisposto al generato di mutuo, no? Cioè, Eh sì, poi faccio una qualcosa è ricorso stato penale. risolto. No, Ah, tu comunque sei... il rendimento percepito all'imputato che adesso comunque risultare che è risultato il residuo del, di ciò che è dovuto in termini capitali interessi per il mutuo ipotecario qualora fosse superata la soglia di interessi statistici. È dovuto perché in base alla relazione del consulente potrebbe essere aggiornato. Se c'è un residuo se non c'è. Per sentire con i rappresentanti bisogna condannare che. Dopodiché però sì, mi pareva che sì, praticamente non si capiva perché era finita la controversia e Sì. venisse ridotta la violazione della normativa antitrust. Di tratto sarà difficile perché, no? Diciamo qui, questa causa è qui perché, però è la Io sesta. Quindi voi riducete anche la violazione. No, questa, mi sembra che alla sua sedienza si fosse comunque ma dov'è la tornata. violazione disciplinare? Si può tornare a essere violato, la violazione della disciplina antitrust. Ma voglio dire, voi riducete semplicemente, ma non allegate in che cosa sarebbe consistita la violazione. Cioè, quindi secondo profilo questa, dicendo, un comportamento antitrust in termini di imprese capitali che possono, diciamo, diminuire la libertà di concorrenza e quindi comprendere la sì, ma dentro la scelta, perché la sulla comunità competitività è economica. ovvio che una volta che viene violazione della normativa antitrust. Comunque, detto questo, voi vi difendete rispetto a questa riduzione che riguarda l'aumentare il tasso di interesse, deducendo Sono invece che le tasse di quindi lei aveva auspicato un avvicinamento tra le parti per però in realtà era difficile trovare questa soluzione, a parte che c'è stato un avvicendamento dei colleghi, di legali, una rinuncia al mandato in giugno, il collega della Luna che si è costituito il 1° di settembre e ha depositato la terza memoria, non c'è una seconda memoria, ha depositato la terza con una relazione di fatti nuova che quasi quasi contesta i risultati della primissima che l'hanno fatto già a Monza, il collega di Taranto ha fatto posizione di istituzione, reclamo al collegio. Riguarda il titolo esecutivo presentato dal mutuo. Sì, 3 anni dopo la sentenza esecutiva e né il giudice dell'esecuzione né il collegio che aveva deciso il reclamo hanno sospeso l'esecuzione. Quindi l'esecuzione è in corso, si tratta semplicemente di motivi di opportunità, poi noi non siamo riattivati, però è in corso e domani potrebbe essere riattivata. Questo è anche il problema. Ovviamente ha detto non potrebbe discutere la questione dell'Euribor, che va discussa tratta di una domanda di paese, delle due l'una, o la parte rinuncia a contestare questo aspetto, che peraltro è genericamente dedotto in atti, no? E quindi tutto torna alla sede sua, che è quella del procedimento esecutivo, in cui l'opposizione all'esecuzione si fa un processo di punizione incidentale sull'opposizione all'esecuzione, in cui la parte può contestare la validità delle cause. Però io non la vedo in questi termini, perché è un film che non è sempre stata. È stata proposta una causa di merito e sono state abbandonate le domande relative alla nullità. Si discute dell'Inter. Lei sta facendo valere una pretesa, un petitum che presuppone la validità di quelle clausole. Loro la validità di quelle clausole la stanno contestando qua. Qui c'è una rispendenza, perché si tratta dello stesso titolo, loro anziché fare il procedimento di commissione all'esecuzione, là hanno solo un atto di citazione, non sa perché, perché complica processualmente la faccenda, non fare posizione all'esecuzione in quella sede. Allora, il giudice dell'esecuzione ha sostanzialmente determinato l'opposizione e non ha sospeso la. Ok, reclamo il collegio. Il collegio ha detto, rigetto. Quindi quella lì era l'opposizione, che coinvolgeva tutto il discorso anche relativo alla nullità o pretesa nullità. In questa di niente. Nella cosa hanno opposizione hanno dedotto. Hanno fatto dei discorsi analoghi, cioè che le non mi ricordo se le Euribor era stata. Vabbè, a parte le Euribor, ma comunque le Euribor magari potrebbe essere un po' l'importante. E basta, lei tiene presente che loro hanno prodotto. Quindi in sede di opposizione è stata cautelare, in sede cautelare diciamo, è stata respinta la negazione relativa alla nullità della clausola degli interessi come interessi sopra soglia. È stato considerato. Dunque, lì non è stato deciso con sentenze. No, ma è stato, no, capito, ma è stata considerata in sede di opposizione. No, non è stata concessa la sospensione. No. Il giudice dell'esecuzione aveva dato un termine per riassumere la causa in merito. Loro l'hanno riassunta, anziché a Monza l'hanno riassunta a Milano, ma nel frattempo loro hanno fatto reclamo. Questa è la causa. Nel frattempo reclamo al collegio e il collegio aveva ricordato e non aveva sospeso. E qui il procedimento esecutivo è finito. No, non è finito. Perché si deve formare il punto sul titolo, ma quindi loro hanno promosso un accertamento sul titolo direttamente a Milano. Detto questo, noi quindi siamo quindi a serie in cui si deve valutare esclusivamente il titolo, voi qui non avete fatto un accertamento. Anche perché non si sono costituiti. Bene, quindi qui ci sono un'altra domanda che c'è, è quella di una matrice che riguarda la legittimità della posizione del tasto. Voi secondo questo profilo cosa perché noi, perché noi, siccome qui abbiamo tre perizie di parte vostre, due e una perizia di parte nostra. E siccome naturalmente nessuno si mette d'accordo, anzi l'avvocato della Luna, partendo dall'opposizione, che era una perizia di un collega di Taranto, non si capisce più niente, no? I super tecnici dicono uno il contrario dell'altro. Ma su che cosa vuoi, cioè qual è la vostra posizione? costi delle differenze nascono dal fatto che si considerano o non si considerano nella formazione del tasso determinati costi. Per esempio, c'è una contestazione rispetto al fatto che devono essere computati interessi moratori riguardo al complessivo tasso, perché su interessi moratori c'è giurisprudenza che dice, siccome la causa del pretendente della mora è diversa da quella dell'interesse sul costo come complessivo del prezzo del denaro, non rientra il tasso soglia, perché il tasso soglia tiene conto del costo del denaro, non delle qualità che il debitore non paghi, perché quella è un'eventuale. Quindi, se io capisco un interesse moratorio, non è che il tasso di interesse moratorio ci sono, l'adempimento mio da parte, che se non paga, devo pagare una mora. Quali sono le vostre diverse posizioni rispetto a determinazioni di questo soglia, visto che non convenite sul fatto che il tasso sia ultra soglia? Uno riguarda la sommatoria del tasso degli interessi moratori. Il fatto che la corrispondenza tra gli interessi applicati e quelli che avevano nel piano di ammortamento è identica. Vuol dire che noi abbiamo la banca applicato esattamente il contratto, non ha fatto delle valutazioni diverse. Mentre secondo il vostro consulente, perché lui dice che ci sono delle contraddizioni anche tra il primo e il secondo. No, le spiego perché io ho fatto caso. Di leggere la comparsa della situazione del codice di Marco. E lui, che lui dice anche il primo perito di parte loro era stato troppo buono e non aveva considerato. Chiaramente non sono in grado di valutare. Vi siete affidati a due terzi, dovete decidere qual è la vostra. Sicuramente la seconda. La seconda è intervenuta quando? Ma ci sono dei limiti della deduzione di parte, no? Non è che è stata depositata dalla memoria numero 3. Tanto per intenderci. Quindi voi naturalmente allo Stato vi necessariamente dovete ricordare all'unica perizia di parte. Perizia che è stata. Che è comunque una integrazione della vostra allegazione, non è una consulenza, perché quando la parte produce una consulenza, devo dire, io sto integrando la mia allegazione con una questione tecnica che non sono in grado di viscerare. Quindi è allegazione. Allora l'allegazione va fatta in termini processuali precisi. Prima memoria massimo 183, si arriva dopo 183, è una deduzione nuova, inammissibile. Okay? Quindi io vi chiedo. Detto che ciò che si deduce si deve dedurre nei limiti del contraddittorio, rispetto al contraddittorio per prima e oggi non è tre. Ammesso che abbiate fatto chiesto una consulenza ulteriore nella scorsa memoria, questa ha ulteriore, no, la richiesta di consulenza è sempre quella. Semplicemente la richiesta di CPU è comunque quella, l'oggetto non è cambiato. Ma le CTU non sono esplorative, il giudice non si chiede se si chiude, verifica che, come dico io, è così. Allora voi dite due cose, ne dite una con la prima consulenza e ne dite un'altra con la seconda. No, in realtà non è così, diciamo, o no? Allora, sono identiche le conclusioni dei due consulenti? Allora, siamo arrivati al punto che comunque la seconda è inammissibile, quindi tanto non è. Ma lasciamo perdere. È ammissibile se dice qualcosa in più, ma se dice qualcosa di meno è ammissibile. Quindi sto chiedendo cosa dice il diverso il secondo consulente rispetto al primo, dice qualcosa di meno sull'oggetto, no, non dice nulla di diverso. Come diceva il collega, dice no, addirittura dovrebbe essere calcolato in un altro modo, ma sul punto non è che cambia. Se calcolato in un altro modo, cioè. Voglio dire, cambia quindi la valutazione che ha fatto il consulente, nel senso dice il tassi soglia sono superati o non sono superati? Quali sono superati per tutti, noi? Sì, per tutti i trimestri o rispetto a che cosa ha cambiato la valutazione rispetto al primo? Se ne avete aggiunta una? No, valutazioni no. Allora, la richiesta è sempre questa. Infatti, io sto leggendo la memoria che ho utilizzato l'avvocato della linea e dice: relativamente all'accertamento del tasso usurario, prendendo esplicita posizione sull'interesse superiore al tasso storico, più accertato il tasso storico al momento dell'esplicita dell'impulso, verificare se il tasso contrattualmente stabilito, il target, eccetera. Verificare se. La richiesta è questa. Ma non si può dire verificare se, bisogna dire verificare che. Cioè giudice non esplora, adesso il ministero. Il giudice va a verificare chi delle due parti ha ragione. Allora, per avere ragione bisogna sapere che cosa si chiede. Lo so che chiede una consulenza per vedere se, ma non si può fare così, secondo me. Bisogna dire. Allora io vi ho chiesto, secondo il consulente, primo, certamente sono superati alla luce dei calcoli della formazione del TAEG, che tiene conto di una serie di costi. Con la seconda consulenza, il consulente ha tenuto conto degli stessi componenti del TAEG o no? Perché per esempio, come dicevamo, l'interesse moratorio non andrebbe tenuto. Se il primo l'ha tenuto in considerazione, l'ha tenuto in considerazione anche il secondo? Ma poi me le guardo io queste cose, però dovete sapere anche voi che siete voi dei parti. Nella prima perizia fatta dal dottor Blasi veniva contestato l'anatocismo, ma non veniva calcolato correttamente. La seconda perizia che abbiamo depositato, quella del professor Annibali, fa sempre la stessa contestazione, ma fa il calcolo dell'anatocismo, quindi lo dimostra, e tramite il calcolo dell'anatocismo, cioè andando a dimostrare qual è la parte anatocistica nella rata, determina un TAEG superiore al tasso soglia. Con l'anatocismo? Con l'anatocismo. Solo con l'anatocismo? Con l'anatocismo, considerando le spese come vengono contestate dalla banca, cioè la banca dice che le spese vanno considerate solo quelle, le spese d'assicurazione, scusi, solo quelle della prima rata. Noi abbiamo anche per questo tempo... Quindi vengono considerate spese, interessi moratori, l'anatocismo. L'anatocismo appunto bisogna vedere, quindi gli interessi possono maturare gli interessi sulla base della sa, dei contrari che anatocisticamente fattibile, del libera cicre non c'entra niente, perché il libera cicre riguarda il conto corrente. Quindi saldo debito credito e può essere anatocistico, può essere convenuto correttamente l'anatocismo, purché la banca applichi interessi sugli interessi sia nel momento in cui il credito, il conto è in saldo positivo, sia quando è in saldo negativo, e il calcolo venga fatto con una periodicità uguale, trimestrale, annuale, perché, ma deve essere uguale. Qui invece non c'è un rapporto di dare e avere, c'è soltanto un rapporto di dare, e la regola è che gli interessi non devono maturare di interessi, cioè non ci può essere la capitola la è dimostrato, no, su questo, su questo noi abbiamo detto che il piano di ammortamento che era legato al tributo era la rappresentazione della, del calcolo degli interessi secondo le regole. O con l'anatocismo? Secondo le regole? No, secondo le regole della normativa vigente o addirittura di interesse. La normativa non consente l'anatocismo degli interessi. Ma noi non abbiamo mai contestato sugli interessi. No, lo contesto con comunque sai che cosa è? Allora, in realtà qui voi dite che si sia tutto. In realtà qui non c'è stato un mutuo, c'è stato un mutuo, ma perché? Perché è stata con un mutuo la banca ha fatto un'operazione di ristrutturazione del debito. Quindi cosa vuol dire? C'era un saldo passivo di una ditta, debito individuale di Napalitani, giusto? Esatto. Quindi c'era un conto corrente di Napalitani, debito individuale, che aveva uno scoperto. Allora la banca ha detto, posso aprire un scoperto, quindi ti faccio un mutuo. Ma non come azienda, come privato. Puoi restituire alla banca il saldo negativo e chiudo come è stato fatto la posizione debitoria individuale della ditta bancaria è stata chiusa con questo mutuo. Allora noi avevamo chiesto un finanziamento di circa 50.000 euro della quale è stata trasferita la somma che in origine la banca aveva trasferito da prima il conto contestato Ambrogio Massimo Maiavalli e la signora Pantani Moglie. E da questi bonificati nel conto contestato tra Ambrogio Valli e Massimo Maiavalli. Argomentazione nuova fatta venire. Allora, qui sostanzialmente che è successo? Questo lo dice nella seconda memoria, dice, spiega qual è la parte. Dice, c'era un conto corrente scoperto. La banca cosa ha fatto? Ha concesso un mutuo ad una parte. Chi l'ha concesso? Al signor Ambrogio. Giusto? No. E al signor Ambrogio, Massimo e Panzani. Quindi il mutuo è con tutti e tre. Anche la persona fisica, la posizione del saldo debitorio del conto corrente era una persona fisica, era Panzani. Ma la ditta è il nome dell'impresa, è un'impresa individuale, quindi è una persona fisica. Quindi c'era Dina Panzani, quale imprenditore individuale della ditta con la nome X, ma quale imprenditore individuale aveva un debito nel confronto della banca di 200.000 euro, supponiamo. La banca dice, ti presto 150.000 euro, ti presto 200.000 euro a te, Panzani, ad Ambrogio, a tuo marito, tuo figlio, con l'obbligo mutuo. Ma questo, c'erano delle, in questo mutuo, c'erano degli accordi per cui la somma sarebbe stata versata. Ce l'hanno imposto, verbalmente ce l'hanno imposto. Ecco, cioè ci hanno detto noi ti facciamo il finanziamento da 50.000, però in realtà lo facciamo da 200. Però quando ottieni il finanziamento, 150 devono andare. Deve versare sul conto. Esatto. Esatto. Questa era la... E questo è un comportamento, diciamo, che altera, perché cosa succede? Perché in questo modo la banca si mette al sicuro, perché mentre alcune cose, come possono essere fatte valere, diciamo, nella gestione del conto corrente, soprattutto delle poste con cui questo conto corrente è arrivato a una certa parte di vittoria, fa una novazione del titolo. In questo modo sostanzialmente io ottengo la restituzione del saldo negativo del conto senza alcuna obiezione da parte del cliente con che riguarda tutte le eventuali illegittimità di informazione del conto, non fai danno di contestualità, non stipulazione per iscritto degli interessi passivi e tutte cose qua, e praticamente apro una nuova posizione che puoi contestarmi sotto profilo mutuo, quindi elimino tutte le eventuali contestazioni sul saldo di conto corrente e invito a soltanto il conto corrente, però era regolato al contratto. Appunto, ma i contratti ipotetica lo fanno, alla stessa ci sono 600.000 cause di contratti di conto corrente che vengono contestati sul profilo della validità delle clausole, no? Perché le clausole possono essere nulle in quanto gli interessi sono non solo contenuti regolarmente, sono contenuti con il mediato, possono essere dati decisi diversi, possono essere cominciati molto prima della CICR e fino alla CICR, quindi la Lombardia, non ci è successo, non so che altro, poi posso guardare, quattro anni qua, quindi non so. Allora, quella, quel contratto, ma scusi, il contratto Panzani, quando mi sarei iniziato? Non lo so, la ditta so che è stata aperta nel 85, ma dopo... Quindi volete dire, siccome ci sono stati... Prima di arrivare alla diretta del 2000, diciamo, la gestione del conto poteva essere... No, ma il credito Valtellinese è stata l'ultima banca con sì, cui... Sì, è stato poi, perché sono arrivato lei e dopo. Ma il conto è sempre lo stesso, cambia il titolare, ma il conto c'è... Sì, sì, ma prima sì, l'avevamo con altre banche. Ma non è che è cambiata il conto, è cambiata la banca. Sì, ecco, allora, quindi sostanzialmente, essendo che è avvenuta questa cosa qua, quello che qui è contestato però appunto è soltanto il titolo mutuo. Nel conto corrente è superato, perché questa somma è, però appunto... con riguardo al mutuo voi contestate quindi da un lato che l'interesse convenuto fosse superiore una capitalizzazione di interesse limitata e poi quindi anche per l'aggiunta di costi che non avrebbero dovuto essere conteggiati, cioè un'aggiunta di costi che devono essere conteggiati per la verifica del TAEG e che portano il TAEG sopra. Anche solo considerando le spese? Sì. Come le considera la banca, non come le diciamo noi. Vabbè, questo adesso poi lo provo. Volevo capire però la posizione della banca qual era rispetto alle contestazioni che muove la parte attrice di punto usura, perché si parla solo di una. Cioè, in punto usura la banca si impegna dicendo non è vero che c'era l'anticipo oppure c'era l'anticipo le cifre. Il professor Annibria ha dimostrato contestando la perizia del Capra, del dottor Capra, perché è la pericola del compagno. L'ha dimostrato con i conti. Cioè, è stato anatocismo. Esatto. Invece voi dite no, non è vero, non è così. E deducete, vi riportate alla vostra relazione tecnica di parte, che è quella di parte. Non c'è altro comunque. Io ce n'ho che un'altra che risponde alla relazione loro che avete depositato. No, che non deposito, deposito oggi. Sì, sì, che c'è, per quale te in un'ipotetica CTU, quindi in sostanza questo è il tema. Tasso soglia con un tasso, cioè superamento non superamento, tasso soglia, e poi c'è questione Euribor, che però questa questione Euribor è diciamo così legata, ma diciamo che essendo un illecito extra contrattuale a relazione alla legge antitratto, l'onere probatorio tutto a carico di parte attrice che deve argomentare in termini di condotta e in termini di nesso causale e evento, no? E qui c'è un riferimento all'Euribor come, come diciamo punto di un accordo tra le banche, che però ho capito, ma bisogna dire è un accordo tra banche, ma tutte le banche fanno così, qual è la cosa? Cioè il tema è un tema che andrebbe diciamo più argomentato, più in funzione della condizione extracontrattuale per dire che il riferimento al tasso euro nel momento in cui viene convenuto è nullo perché è contrario alla disciplina di tasso. Quindi bisogna vedere adesso, quindi uno è un aspetto che ha a che fare con la violazione del principio della contrarietà e delle verticali alla norma del consumatore. L'altro invece era verificare. per quello e lo mettiamo così come è un punto di riferimento oggettivo. Sì, però no, questo non è sufficiente come richiesta in generale rispetto al tema della contrasto, perché se voi lo prendete veramente, potrebbe anche essere, ma se il comportamento dell'anti uniforme è uniforme rispetto al fatto di accogliere una intesa anche tra pochi, ma però io accolgo, diventa un'intesa avanti. Quindi nel momento in cui io aderisco all'intesa raggiunta da X banche, partecipo ovviamente a quell'intesa. Allora, se tutte partecipano a quell'intesa, di fatto, esiste una compromissione della libertà di concorrenza, diciamo, c'è una limitazione della libertà di concorrenza, un'intesa verticale a danno del consumatore, anche un'intesa orizzontale a danno del consumatore. Quindi il problema nella fattispecie è però averlo dedotto nella fattispecie. La difesa dovrebbe essere al contrario, ma non è vero che tutte le banche si adeguano all'interesse Euribor, ma è tutta una scelta. E se non è tutta una scelta, non c'è nessuna intesa orizzontale vincolante, quindi non rende nulla la causa. Però tutto questo secondo me non c'è in atto, io non ho visto l'organizzazione di questo livello in atto. Allora adesso mi riserverò e poi decideremo eventualmente se è un caso. Allora, mi parli? Ha già detto il toccato dalla luna, ha detto che sono filobancari. Sì, ha detto. Questo ha detto lui, non lo so. Non lo so. L'attuale Tobi non interrompe lì? No, non sono filobancari. Se l'ha detto lui è una... Ma quando l'ha detto? Scusi, nell'atto. Di fatto esiste una controversia e il giudice la necessità di cartaceo il nostro problema. Io sì, se non voglio andare in destra, ma potete leggere su una. Invece voi mi sembra che abbiate fatto solo erotte le natiche. Certo, queste sono lì. Questa è la prima, questa è la seconda. La seconda, e poi, abbiamo questo che sono i documenti. Ma mi interessa soltanto se avete mai depositato una versione tecnica? No, infatti, il dottor Capra, questa è quella di parte, sì. Ecco, questa è quella del creditore intermediario. Certo, è quella, diciamo, quella che avete usato la con la numero 2. Sì, che era quella che avevamo fatto nel procedimento di No. Ma proprio questo. E invece voi avete noi la prima ce l'abbiamo sicuramente la persona io però la seconda no perché non mi una cosa, la procura le devo lasciare l'originale o le posso lasciare una copia? Per esempio farmi un altro dal notario. No, vuole la copia, c'è una copia. Arrivederci.